Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo noi di 451 Frammenti Sonori, rientrati in diretta per il nostro classico ormai spazio della domenica sera. Stasera condurrò io invece del mio compagno di viaggi Max Macchia, che saluto qua in modulazione di frequenza stereo. La scorsa settimana è stato lui a condurre in solitaria, quest'anno invece sarò io, e dunque una buona serata da Eliseo Scarpa. 451 Frammenti Sonori, trasmissione dedicata alle sperimentazioni sonore e non solo, all'avanguardia musicale in genere e alle musiche di ricerca. Trasmissione ormai decennale che continuiamo a mantenere con fiera resistenza a varie difficoltà, e 451 Frammenti Sonori che ricordo sempre anche per coloro, ad esempio, che si fossero messi casualmente in ascolto di queste frequenze, ha anche uno spazio internet, un blog che in realtà è un no blog, dove potrete trovare tutte le informazioni inerenti alle ultime trasmissioni con la scaletta dei brani e degli album dei vari autori che abbiamo inserito nelle scorse puntate, e anche la possibilità di riascoltare la trasmissione in podcast, e anche la possibilità di scaricarvela se volete massacrarvi, appunto, scherzo chiaramente. 451, il sito è 451frammentisonori.noblogs.org, e noi iniziamo stasera questa avventura di questa domenica di giugno, domenica anche abbastanza importante dato che ci sono stati, hanno appena chiuso i seggi, il referendum che noi comunque abbiamo seguito, e appunto speriamo che si superi questo maledetto quorum. Noi di regola non invitiamo mai alla presenza alle urne perché siamo abbastanza contrari politicamente, ma questi referendum hanno una certa importanza, per cui chiaramente speriamo anche che passino il segno, diciamo così, ma chiaramente non basterà solo questo, ma un piccolo segnale importante in questo momento storico. 451 Frammenti Sonori riparte dunque stasera in una puntata che ripercorre una vecchia trasmissione, in realtà neanche vecchissima, di un anno e mezzo fa, che avevamo affrontato con il buon Max Macchia, e la trasmissione si intitolava New Traditionalist, anche in omaggio a un album storico dei Divo. E noi stasera riprendiamo questo filo rosso costruendo, diciamo, la seconda parte, denominata con sottotitolo Avant Folk. Che cosa vogliamo intendere con nuove tradizioni? Ecco, un modo differente anche di concepire l'idea musicale sonora delle tradizioni, e anche un modo per farvi ascoltare dei progetti che hanno ripreso musiche tradizionali, folk, dall'America fino all'Asia, rielaborandole su, appunto, i capisaldi tipici, sia strutturali, compositivi, che strumentali di queste musiche tradizionali, folk, in parte anche popolari. È anche un modo differente, come alcuni gruppi faranno, di concepire la nuova tradizione, con un gioco ovviamente di parole concettuale rispetto all'idea di tradizione, in rapporto chiaramente anche alle sperimentazioni, e in questo caso stasera le avanguardie, per cui sottotitolo Avant Folk. Ed apriamo con una formazione che è passata poco fino ad ora all'interno di 451 Frammenti Sonori, ma una formazione molto interessante che percorre questi lidi, sia riprendendo delle musiche folk country americane, riproponendole in un'ottica spaziale, elettronica e anche in alcune parti psichedelica. Si tratta di Six Organs of Admitage, che propone, che stasera proponiamo in particolar modo, l'ultimo album appena uscito, Asleep on the Floodplain, uno splendido lavoro dove appunto si intersecano vari linguaggi musicali, e in particolar modo questo album rientra anche all'interno dell'idea della trasmissione di stasera, appunto legata alle nuove tradizioni, all'avant folk, così l'abbiamo voluto definire. Andiamoci dunque a sentire quest'ultimo album uscito da pochissimo, Asleep on the Floodplain di Six Organs of Admitage. Thank you. Splendido veramente questo brano che abbiamo preso da Asleep on the Floodplain, splendido lavoro di Six Organs of the Hermitage, un modo appunto assolutamente innovativo di reinventare le musiche tradizionali, dunque nuove tradizioni rimasticate in un'ottica ipnotica, ossessiva, con questa linea di chitarra che viene appunto portata avanti con una linea ripetitiva fino a incrociarsi con organi e sequenze elettroniche per chiudere poi con queste voci abbastanza evocative in chiusura del brano. Le sentiamo ancora in sottofondo, i lavori più squisitamente legati alla musica tradizionale, ripresi, rimasticati comunque con un suono e una tecnica anche nuova di finger picking sulla chitarra acustica splendida utilizzata da questa formazione tra le più interessanti degli anni zero su questa scia musicale. E da Six Organs of Hermitage andiamo a pescare un'altra formazione americana, The Sunburned End of a Man, formazione nata a fine degli anni 90 muovendosi inizialmente su un crinale più legato al post rock, per poi sempre più avvicinarsi e rielaborare le musiche tradizionali americane riportandole all'interno di dimensioni anche in alcuni casi improvisative e connesse anche a una certa sperimentazione molto vicina a una certa avanguardia. E dall'album che andiamo a pescare, che è l'ultimo uscito alla fine del 2010, dunque anche questa una novità, o dopo il brano che abbiamo ascoltato tratto dall'ultimo album The Six Organs of Hermitage del 2011, andiamo appunto a pescare questo album intitolato A e basta, solo la lettera A, di questa formazione, che appunto è interessante il modo in cui si è evoluta musicalmente, percorrendo poi dei lidi connessi sia alle musiche tradizionali che alle musiche d'avanguardia, mischiate in un'ottica abbastanza particolare. Anche loro utilizzano una certa elettronica in maniera piuttosto eclettica, come i Six Organs in precedenza, e ce ne andiamo appunto ad ascoltare, sempre in questo flusso connesso alle nuove tradizioni, all'avant folk. In questo caso la prima parte sarà molto dedicata alla terra americana, e poi invece ci sposteremo dal di là del Pacifico verso l'Oriente, l'Asia, per ascoltare altre cose, altre dimensioni legate alle nuove tradizioni. Intanto The Sunburned End of a Man A. E siamo rientrati in diretta dopo questo splendido brano di Richard Skelton che abbiamo mixato con il spericolato brano dei Suburban at the End of a Man, ricordiamo ancora l'album A del 2010. Abbiamo mixato questo personaggio eclettico, Richard Skelton, che oltretutto ha vari nomi e vari progetti all'interno appunto della sua esperienza musicale di questi ultimi 10 anni. Personaggio appunto che ha composto e formato una formazione che ha avuto sicuramente una grossa rilevanza negli ultimi anni, è Broken Consort, ma appunto anche altri personaggi come Clawback, altri progetti appunto, Carousel, Heidika, oltre appunto al suo progetto omonimo come Richard Skelton. Personaggio che si muove tra musiche ambientali, post-rock, musica contemporanea per certi versi e chiaramente anche le musiche legate alle dimensioni popolari tradizionali americane riportate attraverso soprattutto l'uso di una chitarra tipica della musica popolare americana e anche l'uso di archi e violini che lo rendono sicuramente estremamente suggestiva nelle sue coloriture, nelle sue atmosfere, come nel brano che abbiamo appena ascoltato. L'album in questione è uno degli album considerati migliori di Skelton, Marking Time, uscito nel 2008. E rimanendo ancora all'interno della terra americana, ci avviamo a trovare il prossimo personaggio, anche questo personaggio multiforme che è passato anche a Bologna e in Italia parecchie volte, David Toop, che tratta veramente di tutto dal punto di vista dei linguaggi musicali, ha attraversato le più disparate musiche legandosi e rimanendo sempre ovviamente all'interno di dimensioni sperimentali di ricerca, ma mantenendo sempre una forte attenzione nei confronti delle musiche tradizionali, non soltanto della sua terra, ma cercando appunto di pescare suoni, melodie, strumentazioni, echi sonori di terre anche lontane, in particolar modo quelle asiatiche e giapponesi nello specifico. Musicista che ha attraversato tutte le diramazioni sperimentali di questi ultimi 15 anni, attraversando elettronica, improvvisazione, minimalismo in alcuni campi e addirittura dimensioni concretiste mischiate appunto anche a sonorità di tipo tradizionale, rimasticata e addirittura riconcepita in un nuovo millennio che si è andato ad aprire. L'album che andiamo a utilizzare per scandagliare le sonorità di David Toop è Black Chamber, uscito nel 2003, e abbiamo selezionato appunto un brano che può dare l'idea delle sperimentazioni dell'autore che ha attraversato diverse volte le frequenze di 451 frammenti sonori. Ci andiamo dunque a sentire David Toop, Black Chamber, 2003 l'album. In chiusura chiaramente poi scatterà il GR di Radio Popolare Network. Ovviamente ancora buon ascolto e risentirci dopo intorno all'1:10, 1:15 per la seconda parte di New Traditionalist 2 Avant Folk. Buon ascolto e a dopo. Thank you.